avanti. Fatiche e certezze per continuare ad andare avanti. È dura la vita per cercare la via per un futuro. La vita è dura se non sei tu a crearti un futuro. Futuro di merda, se è questo che si prospetta. È vero, se non sai ancora quello che ti aspetta. Ti aspetta un treno per una seconda chance. La foglia all'attimo sarà il vincitore di Le Mans. È proprio duro vivere in queste circostanze. Mille problemi ma sogno il cielo nelle stanze. Vivo la giornata per qualcosa di sicuro, perché dopo la mezzanotte non c'è niente di più scuro. Più scuro nel senso che peggio non si può vivere. In queste condizioni non è ammesso decidere. A prescindere di chi sia volermi recidere, c'è solo da piangere ma fingiamo di ridere. Il problema principale è chi comanda il capitale. Il principale sanguisuga aspira il nostro capitale. Ci spreme fino all'osso prendendosi anche l'anima. E se mi ribello mi azzanna come un animale. Non basta confortarmi con l'amore di Fatima, perché dietro di loro c'è sempre l'ombra di Satana. Poveri noi che questa vita conduciamo, ma poveri un cazzo siamo noi che li votiamo. Non è la vita che voglio, per questo guardo avanti. Fatiche e certezze per continuare ad andare avanti. È dura la vita per cercare la via per un futuro. La vita è dura se non sei tu a crearti un futuro. Futuro di merda se è questo che si prospetta. È vero, se non sai ancora quello che ti aspetta. Ti aspetta un treno per una seconda chance. La foglia all'attimo sarà il vincitore di Le Mans. Questa vita l'affrontiamo mica sedute su un divano. Viva la giornata da più di un giorno. Evitiamo di vivere come se avessimo ciò che non abbiamo. Mi sdoppio, quattro braccia e gambe, uomo vi troviamo. E dallo sbocco meridione vuoto di nido orgoglio. Campo con ste due cazzate scritte sopra un foglio. E ciò non basta se nella testa confusione. C'è chi di campare se non muori tipo inquisizione. Come se sta ghigliottina cade dal cielo ma mi manca. La gente ammanca, cerca di tirare ma si stanca. Maledice quel giorno da lavoratore onesto. Assapora sto dolore, senti solo un rumore adesso. Prendo quello che sono, prima lo confesso poi lo perdono. Lo specchio riflesso adesso butto quello vecchio e faccio uno nuovo. Se cado mi rialzo e combatto ancora io. Non posso fare altri FUVO se non vi piace il mio. Non è la vita che voglio, per questo guardo avanti. Fatiche e certezze per continuare ad andare avanti. È dura la vita per cercare la via per un futuro. La vita è dura se non sei tu a crearti un futuro. Futuro di merda se è questo che si prospetta. È vero, se non sai ancora quello che ti aspetta. Ti aspetta un treno per una seconda chance. La foglia all'attimo sarà il vincitore di Le Mans. Chi comanda è il nostro auto.